Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Teatro delle condizioni avverse in Sangue dal naso, Scuola Diaz, Genova 2001, di e con Andrea Maurizi. Mi sta assaltando. La polizia. La polizia. Sì. Gli avevano spaccato tutti i denti con i manganelli, la bocca era gonfia. Le persone in barella sono dei ragazzi, sono letteralmente massacrati. Dai, dai, che cazzo volete? Dai, fate passare anche lei. Ma sono responsabile sta tutto. Dai ragazzi, non diciamo cazzate. Lei non sa che ci sono 20 feriti? No, non lo so, io stavo facendo tutt'altro lavoro. Ambulanze che passavano a decine. Mi hanno gridato vergogna, assassino, fascista, delinquente. Temo moltissimo per la democrazia in Italia. Ho praticamente rovesciato distrutto tutti i computer, tutti i televisori e pieno di oggetti personali rovesciati all'interno dei corridoi. Hanno eliminato il nostro diritto a manifestare. Hanno eliminato uno. Questa volta Settini dice che è stata legittima difesa da parte della polizia, veramente da sputarli. Niente è messo in sacchetti di plastica, tutto è messo buttato. Ogni piazza di sangue portava con sé la storia. Spero che andate fuori la verità, vi prego, andate avanti, fate questo. C'è una sensazione di sgomento, di paura e non voglio più provare quelle sensazioni. Io non voglio più provare la paura che ce l'ha fatta provare e mi dovrò difendere. Nottata fetosa, infami, tutto un arramazzarsi, un votati e rivotati, un susiti e un curcati, un addrumisciti e un arrisbigliati. E non per colpa di una mangiatina eccessiva di purpi a strasci nasali o di sarde a beccafico fatta la sera avanti. Perché almeno una scascione di quella affannata insonnia ci sarebbe stata. E invece, no signore, manco quella soddisfazione poteva pigliarsi. La sera prima aveva avuto lo stomaco a così stretto, ma a così stretto, che non ci sarebbe passato nemmeno un filo d'erba. Si era trattato dei pensieri innivori che l'avevano assugliato dopo aver sentito una notizia al telegiornale nazionale. Con un'ariata assolutamente indifferente, la giornalista del TG aveva detto che la procura di Genova, in merito all'irruzione della polizia nel corso del G8 all'interno della scuola Diaz, che la procura di Genova si era fatta persuasa che le due bombe Molotov trovate nella scuola erano state portate lì dagli stessi agenti. Questo faceva seguito, aveva continuato la giornalista, che l'agente il quale aveva dichiarato di essere stato vittima di un tentativo di accoltellamento da parte di Uno Global aveva in realtà mentito. Il taglio alla divisa se l'era fatto lui stesso per dimostrare la pericolosità di quei ragazzi che invece, a quanto si andava via via svelando, nella scuola Diaz stavano pacificamente dormendo. Ascoltata la notizia, Montalbano restò assittato sulla poltrona per una mezz'orata, privo della capacità di pensare, scosso da un misto di rabbia e vergogna, assammarrato di sudore. Bastava ragionare tanticchia sopra quelle notizie che venivano date col contagocce e con governativa osservanza dalla stampa e dalla televisione per farsi preciso concetto. I suoi compagni e colleghi a Genova avevano compiuto un illegale atto di violenza alla scordatina, una specie di vendetta fatta a freddo e per di più fabbricando prove false. Cose che facevano tornare alla mente episodi seppelluti della polizia fascista o di quella di Scelba. Andrea Camilleri inizia così il suo libro, Il Giro di Boa, col commissario Montalbano scandalizzato per quello che è successo a Genova, con Montalbano che vuole lasciare la polizia, poi decide di restarci e il romanzo va per la sua strada. Io a Genova non ci sono stato, perché non capivo che era importante. Il G8 l'ho guardato in televisione e non ci ho capito molto. Devo informarmi meglio, mi sono detto, poi... Poi un giorno arriva alla sala prove della compagnia un'amica e porta con sé un libro, Le parole di Genova. Insieme al libro c'è un CD. Nel CD ci sono le registrazioni di Radio Gap. Radio Gap trasmetteva dalla scuola Diaz, univa diverse radio di tutta Italia cercando di coprire l'intero territorio nazionale. Sentendo quel CD, sentendo la penultima traccia in cui c'è la diretta dell'irruzione della polizia all'interno della sede della radio... Sentendo la diretta dell'irruzione, per me è diventato necessario fare questo spettacolo, perché ho avuto paura della gente che, come me, ha continuato a vivere come se niente fosse successo. Montalbano, Montalbano, che ci fai ancora a casa? Ancora in panciolle stai, Montalbano, bravo, bravo, e noi in caserma, a lavorare. Come dici? Sei rimasto scandalizzato da quello che è successo a Genova? Montalbano, andiamo, lo sai, io non sono fascista. E va bene, non sono più fascista, sono contro la guerra, contro la fame nel mondo. Ma io, Montalbano, in quei giorni del luglio del 2001 non stavo a Genova a sfasciare vetrine e a lanciare estintori contro i carabinieri, Montalbano. Io in quei giorni stavo a lavorare. E poi stai perdendo tempo, Montalbano, stai perdendo tempo. Montalbano, ma che minchia ci fai con tutti questi peluche? Ci faccio le indagini. Ah? Eh sì, quando seguo un caso con molte persone coinvolte, allora do a ogni peluche il nome di una persona che mi interessa. Ah, oh, bravo, bella idea. Fammi un po' qualche esempio. Ecco, vedi, questo qua è Topo Gigio, è Cicchitto, e questo qui è Spaventapasseri, ecco Luci, il questore di Genova. Ah, e Topolino chi è? Montalbà. E beh, Topolino è Berlusconi. Montalbà, Montalbà, tu stai perdendo tempo. Dico, ma ti sei mai chiesto quelli a Genova contro cosa vogliono protestare? Te lo sei mai chiesto? Dicono che il dislivello tra i paesi ricchi e poveri del mondo aumenta, aumenta, aumenta. Non si può continuare così. Ma è normale, Montalbà, quelle lì sono culture sottosviluppate. Dicono che a causa dei brevetti sui farmaci un po' di persone muoiono per malattie curabili. Ma che ti frega, Montalbà? Siamo così tanti a questo mondo. Dicono che le 350 persone più ricche del mondo posseggono il 48% delle ricchezze. Sì, lo so, è impressionante la proporzione, dicono. Perché 350 sta al 48%, come noi altri 6 miliardi stiamo al restante 52. Vabbè, Montalbà, se lo sono guadagnato, no? Dicono che il 14% della popolazione mondiale, cioè noi altri occidentali, consuma l'80% delle risorse. Ma che vuol dire, Montalbà? Io le bollette le pago, mica che consumo così, a gratis. Dicono che gli USA non firmano il protocollo di Kyoto, ma come fanno gli USA a inquinare? Sono questi altri stati, lì la Cina, l'India. Poi tanto anche se lo firmano sto protocollo, poi non lo rispetta nessuno, dico almeno io sono coerenti, no? Dicono che con i soldi che negli USA si spendono per i cosmetici si potrebbe risolvere il problema della fame nel mondo. E con i soldi che in Europa si spendono per i gelati si potrebbe risolvere il problema dell'acqua potabile. Ma che vuol dire, Montalbà? Che non devo più comprare i gelati a mio figlio? E chi in Global non mangia gelati? Ma siamo coerenti, andiamo! Ancora dovremmo credere alla favoletta lì della gruma, l'ago, il ricco, il cammello, il regno dei cieli. Chi è che la diceva, Montalbà? E poi, Montalbà, su, mica ci possiamo traumatizzare perché solamente ogni 6 secondi un ragazzino muore di fame. E lo so, è impressionante, perché tu fai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Puff, non aveva da mangiare, aveva fame, è morto. Ma anche ora, adesso, in questo momento, proprio 4, 5, 6, puff, un altro. Ma che ci possiamo fare noi, Montalbà? E poi a Genova, per la prima volta, sono stati invitati a partecipare a delegazioni dagli stati più poveri del mondo. No, non era una sfilata demotecnica, Montalbà, non mi prendere per il culo. Tant'è che si è deciso l'apertura e lo stanziamento di un fondo mondiale per la lotta all'AIDS. Come dici? Berlusconi l'ha tagliato in una delle sue prime finanziarie. Ah, io non lo sapevo, Montalbà. Ma tu ti stai occupando del G8, che ti frega dalle finanziarie di Berlusconi? No, divaga lui, divaga. E poi quelli lì, Montalbà, erano drogati, pezzenti, bande di delinquenti che sarebbero dovuti essere arrestati e tenuti in galera a vita. E così li ha descritti Emilio Fede in un DG4 del luglio del 2001. Guarda, ti faccio un solo esempio, Montalbà. All'entrata dello stadio Carlini, lì dove dormono i disobbedienti, all'entrata ci sta un cartello. Nel cartello c'è scritto: "Welcome, disobbedienti". Tutte le persone che stanno qua praticano la disobbedienza civile. Ma che vuol dire, Montalbà? Una persona o è disobbediente o è civile. A Genova, per difendere gli 8 uomini più, virgolette, importanti del pianeta, arrivano circa 10.900 uomini delle forze dell'ordine. Sono divisi in 2 gruppi. 4.000 sono all'interno della zona rossa e lavorano con turni regolari, 1.000 per volta. Gli altri 7.000, invece, fuori la zona rossa, lavorano con turni fino a cessata esigenza, dalle 6 del mattino a fine. Sanno quando iniziano a lavorare e non sanno quando finiscono. son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Gli otto grandi iniziano il loro vertice venerdì 20 luglio del 2001. Oltre questo di vertice ce n'è un altro, lo organizzano i No Global, si chiama Public Forum. I No Global invitano a Genova oltre 100 relatori per analizzare, approfondire e capire i problemi legati alla globalizzazione in ambito economico, politico, sociale, alimentare, culturale, sanitario. Sarebbe interessante seguirlo questo controvertice, però i giornali non ne parlano, no. I giornali già da lunedì 16 luglio del 2001 parlano solo di alcune bombe che scoppiettano qua e là per l'Italia. Una caserma dei carabinieri a Genova San Fruttuoso, la sede della Benetton, la redazione del TG4. Cicchitto, Forza Italia, nel suo libro scrive che i No Global utilizzano la violenza per acquisire visibilità. Certo, però è strano che i No Global invitano 100 persone da tutto il mondo, fanno un controvertice, poi però mettono le bombe affinché i giornali non parlino del vertice che hanno organizzato. Allora Scajola, il nostro ex ministro dell'interno, ci aiuta a capire, ci dice che questi episodi qui, queste bombe, sono episodi riconducibili a frange molto minoritarie della contestazione. Martedì 17 luglio. I disobbedienti dichiarano che per protestare contro il G8 invaderanno simbolicamente la zona rossa usando solo i loro corpi. Mercoledì 18 luglio, Stadio Carlini, ore 6 del mattino. Chi è? Siamo 140 agenti in tenuta antisommossa con 22 mezzi blindati, aprite, questa è una perquisizione! E ce l'avete il mandato? No! E senza mandato come si fa? E che facciamo, un viaggio a vuoto? No, no, va bene, noi vi facciamo entrare, ma vogliamo che alla perquisizione ci siano anche avvocati e giornalisti. E dove li troviamo alle 6 del mattino? Non lo so, cercateli. Stadio Carlini, ore 7 del mattino. Chi è? Siamo sempre 140 agenti in tenuta antisommossa con 22 mezzi blindati, aprite, questa è una perquisizione, ma abbiamo anche gli avvocati e i giornalisti. Constatiamo la presenza di circa 500 persone, non constatiamo danni a strutture, arredi o invissi interni. Vabbè, noi abbiamo fatto, ce ne andiamo. Ciao, ciao, e non vi scordate niente, eh? E non fate che ci rivediamo sempre solo quando muore qualcuno. Giovedì, 19 luglio. Genova si prepara ad accogliere gli otto grandi, gli otto uomini più virgolette importanti del pianeta. Le ordinanze. La più famosa è la numero 347 del Comune di Genova, urgenti prescrizioni di tutela e decoro urbano, vietato stendere mutande alle finestre. Poi, un'altra ordinanza è quella del questore Colucci, che scrive alla direzione dell'AMIO, la nettezza urbana, per motivi di sicurezza rimuovere tutti i contenitori dei rifiuti solidi urbani. E poi un'altra ordinanza, quella del sindaco di Genova, Pericù, che scrive sempre anche lui alla direzione dell'AMIO, per accogliere i manifestanti, incrementare i contenitori dei rifiuti solidi urbani, e l'AMIO, tra incrementi e rimuovi, lascia tutto così com'è. Sempre giovedì, però, i disobbedienti vanno dal questore Colucci e gli comunicano il percorso del loro corteo, previsto per il giorno dopo. Loro vogliono partire dallo Stadio Carlini e fare Corso Gastaldi, via Tolemaide e poi Piazza Verdi, via 20 settembre, Piazza dei Ferrari. A Piazza dei Ferrari è dove si svolge il vertice del G8. Il questore Colucci vieta l'ingresso del corteo in Piazza Verdi, via 20 settembre, Piazza dei Ferrari. Sempre giovedì c'è la prima manifestazione. È il corteo dei migranti. Chi c'è stato dice che tutto si è svolto pacificamente, ma non è così, perché alle 19.52 di giovedì un'agenzia ANSA parla per la prima volta di Black Bloc. Ma chi sono questi Black Bloc? Chi sono? Ma dove dormono? Salve, sono un boy scout della GESCI e vorrei manifestare contro la fame nel mondo, però non so dove andare a dormire. E dove lo mandiamo a questo? Allo Stadio Carlini no, là ci stanno i disobbedienti, i giovani comunisti. Io coi comunisti non è che proprio... Ma tu una chiesetta, un convento, no, eh? Ma non è che hai la tenda? Sì, ce l'ho la tenda. Oh, bravo. Allora dai retta a me, vai a dormire a Valletta Cambiaso. È un parco qua vicino, con gli alberi, l'ombra, e anche vicino al mare. Pianta la tenda lì e stai tranquillo. Pronto, mamma? Sì, mamma, sto a Genova. Sì, qui è bellissimo, mamma. No, ma che controlli? Sì, ti ricordi che avevo lasciato a casa il martello di gomma? No, ma che, mamma, qui in questo parco è pieno di campeggiatori, soprattutto tedeschi. Sono attrezzatissimi, mamma. Ma hanno prestato tutto loro. Sì. Sì, questi qui sono un po' strani, mamma, ora che mi ci fai pensare, eh? Sì, non vanno a nessuna manifestazione, non sono andati neanche al concerto di Manu Chao. Venerdì 20 è una bella giornata di sole e il boy scout della GESCI, che forse non fa il boy scout per la GESCI, però è un ragazzo che esiste davvero, si sveglia perché sente dei rumori fuori la sua tenda. Guarda fuori e vede i campeggiatori tedeschi tutti vestiti di nero, che strappano i sanpietrini da per terra, prendono i pali della segnaletica stradale, i tubi innocenti dai cantieri, si stanno armando. E allora lui prende la sua tenda così com'è, la butta in macchina e scappa. Però i cittadini di Genova vedono quello che succede dalle finestre. E quelli della nettezza urbana che passano lì al parco a raccogliere l'immondizia vedono quello che succede, chiamano la polizia, lo dice anche il TG2. Ma la polizia a Valletta Cambiaso non ci va. E per forza, oggi è venerdì 20, arrivano gli otto grandi. La polizia italiana si stava preparando. Per difendere gli 8 uomini più importanti del pianeta, la polizia italiana che cosa fa? Oltre il muro di cemento e ferro che delimita la zona rossa, fa un altro muro, coi container. Di fatto, in alcune zone della città di Genova c'è un'estensione della zona rossa che arriva a comprendere anche la zona gialla. Venerdì 20 luglio del 2001. Le manifestazioni di oggi. I vari gruppi e associazioni si dividono per affinità ed organizzano varie piazze tematiche sparse qua e là per la città. E poi ci sono i due cortei, tra cui quello dei disobbedienti. Relazione riservata del SISDE. Un gruppo di 300-500 black bloc alle ore 12 si troveranno in piazza Paolo Danovi. Obiettivo: alzare il livello dello scontro. Fax urgente alla Digos, fax urgente alle forze dell'ordine. Ma quando mai il SISDE ha già azzeccato qualcosa? Alle 11.30 i Cobas si stanno radunando in piazza Paolo Danovi e vedono arrivare questi qui vestiti di nero. Alla spicciolata, che prima rovesciano un cassonetto, poi un altro, e piano piano cominciano a distruggere tutto quello che hanno intorno. Allora i Cobas, per non essere coinvolti, se ne vanno, abbandonano la piazza, formano un corteo. E i Black Bloc, dietro, si fanno scudo del corteo e continuano a distruggere tutto quello che trovano. Mezzogiorno, piazza Dante. A piazza Dante c'è un'altra piazza tematica. C'è Arci, Attacca, Rifondazione Comunista, c'è Living Theater a piazza Dante. La manifestazione è abbastanza tranquilla. Premendo contro le barriere della zona rossa, riescono ad aprirle un po'. E passano alcuni manifestanti. La prima, Valérie B, 35 anni, francese. Il secondo, Luciano Mauro, 62 anni, di Dolceacqua, provincia di Imperia. 13:15. I Black Bloc fanno un carosello in via Tolemaide, angolo Corso Torino, un giro tondo perché ci sono i giornalisti. E allora hanno i tamburi e si mettono lì, e suonano, girano, si fanno fotografare. Però hanno anche il volto coperto. E i carabinieri stanno fermi lì a poca distanza, ma stanno fermi, guardano il carosello. Poco dopo lo ripetono, perché sono arrivati altri giornalisti, e poi i Black Bloc partono. Vanno verso il piazzale del carcere di Marassi. Lungo la strada distruggono un distributore, un ufficio postale, incendiano alcune auto, un supermercato. La proprietaria del supermercato è andata lei a chiamare la polizia, che stava ferma in strada. La polizia le avrebbe risposto: abbiamo l'ordine di non intervenire. Poco dopo, alle 15:45, il sindaco di Genova, Pericù, chiama Agnoletto, che sta a piazza Dante, e gli dice: pronto Agnoletto, senti, voi siete abbastanza tranquilli, perché non ve ne andate? Così la polizia, invece di stare a guardare voi, può inseguire questi Black Bloc che stanno distruggendo la città. Mezz'ora dopo, alle 16:15, Agnoletto richiama il sindaco di Genova, Pericù, e gli dice: guarda, non ce ne andiamo solo noi da piazza Dante. Si ritirano tutte le piazze tematiche, tutti i cortei tornano indietro, e dice al sindaco, perché poi lo dica alla polizia, tutti i percorsi che i vari cortei faranno per arrivare tutti a piazzale Kennedy. 16:50, agenzia ANSA, piazza Dante è vuota. Ma sul corteo che se ne sta andando da piazza Dante, un corteo girato di spalle rispetto alla zona rossa, su quel corteo la polizia spara lacrimogeni. E intanto i Black Bloc sono arrivati tranquilli nel piazzale del carcere di Marassi. È un piazzale molto grande, ci si affaccia anche lo stadio di Genova. Il carcere è dall'altra parte rispetto ai manifestanti. C'è un video, nel video si vedono circa 200 manifestanti, non tutti, vestiti di nero, dall'altra parte della piazza. E un manifestante, uno, che da solo si dirige contro i 40 carabinieri che avevano alcuni mezzi blindati, che erano lì davanti al carcere a proteggerlo. Lancia una bottiglia Molotov e i carabinieri che fanno? Salgono di corsa sui camion, fanno due giri due intorno al manifestante, sparano due lacrimogeni e scappano. Lasciano il carcere incustodito. Il verbale. Un gruppo di 300-500 Black Bloc si dirigevano correndo all'indirizzo dello scrivente del personale dell'arma armati di spranghe e sassonetti. E Cassonetti, una fitta sassaiola, lanciavamo lacrimogeni, quando ad un tratto i manifestanti, ormai giunti quasi a ridosso degli operanti, ci facevano oggetto anche di lancio di bottiglie Molotov che a malapena si riuscivano a schivare. I carabinieri però, prima di andarsene, chiedono rinforzi al 113, usando il telefonino. Poi c'è l'assalto al carcere, dura un quarto d'ora, perché escono i secondini dall'alto coi mitra. I violenti vanno tutti via, i Black Bloc però prendono una scalinata che sbuca su via Montaldo. In cima alla scalinata, dice una signora che li vede dalla finestra, si fermano un quarto d'ora a mangiare focaccette farcite e bere birra. Poi rubano la benzina dalle auto, le moto parcheggiate, e proseguono verso piazza Manin. A piazza Manin c'è un'altra piazza tematica. Le associazioni di piazza Manin sono associazioni molto dure, forti, estreme. Associazioni come Lega Ambiente, Pax Christi, Comunità Papa Giovanni XXIII, Commercio Equestolidale, Marcia delle Donne, riescono a sapere attraverso un giro di telefonate che i Black Bloc stanno per arrivare nella loro piazza. Allora si siedono a terra con le mani dipinte di bianco e gridano: no violence, no violence. Don Oreste Benzi tenta la redenzione del Black Bloc sulla via di Damasco. Il Black Bloc pensa: questo sta fuori, e girano su via Armellini. Ma arriva subito dietro un secondo gruppo di Black Bloc, tallonato, stretto dalla polizia. Il Black Bloc gira su via Armellini, la polizia dritta sui manifestanti. Teste sfasciate, volti tumefatti, ferite lacero-contuse. Venerdì 20 luglio del 2001, torniamo un po' indietro, a mezzogiorno. a mezzogiorno parte il corteo dei disobbedienti dello stadio Carlini. A quell'ora, a mezzogiorno, i disobbedienti sono considerati dalle forze dell'ordine ancora il gruppo più violento e antagonista. Il corteo è di 10.000 persone. In testa c'è un gruppo di contatto, parlamentari, avvocati, giornalisti, per entrare in contatto con la polizia ed evitare scontri. Poi gli scudi in plexiglass e poi i manifestanti con sempre meno protezioni. I giornalisti nascosti dentro al corteo dicono che è un corteo pacifico, non ci sono armi. Il corteo impiega diverse ore per fare Corso Gastaldi, quasi tutta via Tolemaide, quasi fino all'angolo con Corso Torino. E ecco che un gruppo di carabinieri che era fermo fino a quel momento su via Ivrea esce su Corso Torino e raggiunge via Tolemaide sparando lacrimogeni. Il gruppo di contatto degli avvocati entra in contatto solo col gas. Via. E le forze dell'ordine si fermano davanti al corteo dei disobbedienti di 10.000 persone e i disobbedienti si fermano davanti alle forze dell'ordine. Devono capire che devono fare. Il loro corteo è autorizzato dal questore a procedere ancora per qualche centinaio di metri. Vorrebbero invadere la zona rossa, non sono neanche arrivati alla zona gialla. Al comando delle forze dell'ordine c'è il vice questore Angelo Gaggiano e ordina la carica. Ma via Tolemaide è un imbuto! Sulla sinistra c'è un muraglione alto più di 10 metri con sopra la ferrovia, sulla destra palazzi. Occorrono centinaia di metri per arrivare ad una prima via di fuga dove comunque c'è la polizia e ancora centinaia di metri per arrivare ad una seconda via di fuga dove comunque c'è la polizia. Gli scudi in plessiglass resistono meno di un secondo e la carica delle polizie si spinge giù per centinaia e centinaia di metri. Botte, manganelle e sangue, botte, manganelle e sangue! E le forze dell'ordine si trovano davanti a un corteo di 10.000 persone che sfacciatamente fanno resistenza. Un corteo di 10.000 persone che non scompaiono. Botte, manganelli e sangue per centinaia e centinaia di metri fino alla casa dello studente. Ed ecco che di un corteo di 10.000 persone, circa 2.000-3.000 manifestanti, invece di seguire gli altri, di scappare verso lo stadio Carlini, un gruppo di 2.000-3.000 manifestanti si voltano e diventano combattenti attivi. Prendono i cassonetti e li usano come ariete lungo la strada in discesa. La sassaiola è impressionante, le forze dell'ordine non si aspettavano questa reazione e ora scappano loro giù lungo via Tolemaide. Ma via Tolemaide è un imbuto anche per loro e non ci passano, si ostacolano. E allora che fanno? Scantonano sulla sinistra, verso via Caffa, via Ilice e via Odessa, tutte vie che terminano in piazza Limonda. Quel mattino un ragazzo di 23 anni esce di casa. Ha una tuta, una canottiera, una felpa legata in vita. Sotto la tuta dice la mamma che ha il costume perché deve andare al mare. Esce con un amico, poi ne incontra un altro, lo segue. Alle 15.45 gli squilla il telefonino. Pronto papà? Sì papà, sto bene, tranquillo papà. Sto a Piazza Manin, vive le cariche della polizia, ma conosce Genova, non ce la fanno a prenderlo. Scende per via Montegrappa, attraversa il ponte di Sant'Agata e alle 16.30 è dal Genoano, in via Tommaso Pendola, a mangiare la farinata. Via Tommaso Pendola, però, è proprio di fianco via Tolemaide e si sentono i rumori degli scontri, cariche e controcariche tra polizia e manifestanti che vanno avanti da circa 2 ore. Alle 5 l'amico decide di tornare a casa, lui no, lui vuole andare a vedere. Foto. Via Tolemaide, angolo Corso Torino. Il ragazzo è proprio lì, al centro degli scontri, intorno è tutto convulso. Carabinieri che puntano la pistola sui manifestanti, lacrimogeni sparati ad altezza d'uomo, ma lui è lì, fermo, come se capisse. Stesso punto. Adesso ha un passamontagna, una canottiera e un bastone in mano, ma è fermo. Altra foto. È in via Caffa, è dietro alcuni manifestanti che si proteggono con i cassonetti dalle forze dell'ordine mentre lancia un sasso. Via Caffa è una via che attraversa Piazza Limonda, la attraversa e poi prosegue dall'altra parte. A Piazza Limonda sono rimasti fermi un gruppo di carabinieri. Fermi, hanno fatto un break. In Piazza Limonda ci sono due fotografi, forse ce ne sono di più, ma a noi interessano questi due. Uno è nascosto dietro le persiane di casa sua, un altro giù, in strada. Il fotografo nascosto dietro le persiane fa alcune foto. In una si vede l'arrivo di un'ambulanza, gli infermieri che escono di corsa, ma non c'è nessuno da soccorrere, non ancora. Poi i carabinieri di Piazza Limonda si devono trovare davanti a alcuni manifestanti su via Caffa. Che fa? Li carichiamo? Ah sì, carichiamo. Però è una carica strana, perché una carica per essere efficace va mantenuta, invece questa carica dura poche manciate di secondi. Forse perché i manifestanti su via Caffa si fanno scudo coi cassonetti, i carabinieri non ce la fanno a prenderli. Forse perché dietro, su via Tolemaide, c'è una controcarica delle forze dell'ordine, i manifestanti aumentano. Oppure da via Odessa stanno arrivando altri manifestanti, i carabinieri rischiano di essere chiusi. Non si sa, fatto sta che i carabinieri scappano. Scappano, proseguono su via Caffa, attraversano Piazza Limonda e proseguono via Caffa. Rimangono due Jeep Defender. La prima fa retromarcia, anche lei fa manovra e scappa. Via Caffa, Piazza Limonda, via Caffa. La seconda fa manovra, ma le si spegne il motore. Dice che a bordo sono in tre: Raffone, Cavataio e Placanica. Dal video si vede che intorno alla jeep arrivano 10, 20, fino a 40 manifestanti. Un ragazzo prende masse di legno e cerca di colpire il carabiniere sul lato passeggero. Un altro ragazzo con un caschetto giallo prende un estintore non si sa da dove e lo lancia contro il vetro di dietro della jeep. Il vetro di dietro era già rotto, l'estintore non entra dentro, sbatte sulla ruota di scorta e rotola indietro. Adesso dall'inquadratura, dal video, si vede che tutti i ragazzi scappano. Vanno via, la pistola è già stata estratta. E ricompare qui il ragazzo che alcune ore prima stava andando al mare. Gli altri scappano e lui si avvicina alla pistola, si avvicina alla jeep e si china a raccogliere l'estintore, ma non guarda a terra, guarda in alto. Dov'è la pistola? Alza l'estintore, uno sparo cade a terra sul fianco sinistro, un altro sparo. La jeep riparte, mette la retromarcia e gli passa sul bacino, poi mette la prima e gli passa sulle gambe. Risalgono da via Caffa gli altri uomini delle forze dell'ordine che erano lì poco lontano sparando lacrimogeni, cinturazione. Non si può avvicinare più nessuno. Però ci sono i due fotografi. Il fotografo che è giù in Piazza Limonda fa due foto in particolare. In una si vede il corpo del ragazzo e un sasso bianco, ben riconoscibile, a circa 2 metri da lui. Nella foto dopo, invece, il sasso è proprio di fianco alla testa del ragazzo. È sporco di sangue, il sasso, e il ragazzo ha una brutta ferita in testa. Il fotografo dietro le persiane, intanto, prosegue il suo lavoro. E si vede un uomo delle forze dell'ordine che prende il fotografo che era giù in strada e lo china, lo prende per la collottola e lo china, lo mette a pochi centimetri dalla faccia del ragazzo. E chissà perché, sembra che quel giornalista che era giù a Piazza Limonda di quello che ha visto quel giorno non ne vuole più parlare a nessuno. E poi, altre foto, si vede che arriva Tony Capuozzo con la sua troupe. No, Tony Capuozzo mica lo prendono, che lo mettono lì vicino al ragazzo morto, no. Tony Capuozzo si ferma a parlare con gli uomini delle forze dell'ordine, parlano. E poi, ciak, azione. Un ragazzo, un manifestante che grida davanti alla chiesa, assassini, assassini, e un poliziotto, uno, che corre verso di lui e gli dice, tu l'hai ucciso, tu, col tuo sasso. Hop, hop, hop, 100 metri di corsa, stop, buona la prima. Il video viene mandato a tutti i telegiornali nazionali. Fatto? Sì, fatto. Poi prendono il corpo, se lo portano via e gettano dov'è una chiazza di sangue segatura. E mentre gli uomini delle forze dell'ordine si allontanano, un ragazzo va lì e grida: non si copre quello che avete fatto! Vista, mentre veniva colpita da proiettili al collo, alla testa del corteo. Questa è confermata da chi ha visto qui nel corteo questo. Per cui io la prendo per buona, ho parlato anche con dei responsabili del corteo e che hanno visto. I colpi sparati io li ho visti, per cui la prendo per buona. Sullo stato di salute di questa persona non so che dirvi, ma sicuramente è stata colpita al collo. Praticamente circa mezz'ora fa, durante un'azione un po' estrema, però abbiamo sfondato i carabinieri, è arrivata la polizia e ha iniziato a sparare lacrimogeni, non so dire se anche proiettili. Un ragazzo 5 metri da me è stato colpito in faccia e credo sia morto perché è da mezz'ora che non si muove e nessuno fa niente. Io sono avanzato davanti a questo ragazzo con le mani alzate, ma la polizia ha continuato a lanciare lacrimogeni, ha caricato, e una volta arrivato il ragazzo a cerchio si sono chiusi. È avvenuta in piazza Gaetano Limonda. Nelle tasche del ragazzo c'è un cellulare. Il cellulare è intestato a lui, col codice IMEI si può risalire subito all'identità del proprietario e avvertire i familiari, però in quest'ora non lo fanno. Prima devono fare dei controlli. La sorella Elena vede la televisione, un ragazzo ucciso, e assomiglia, E allora chiama il fratello al cellulare, chiama, poi rispondono, pronto, sono Elena, c'è Carlo? No, Carlo non c'è adesso, sono un amico, mi ha lasciato il cellulare, lei chi è, scusi? Sono Elena, sono sua sorella. Ah, guardi, adesso è più avanti, non posso raggiungerlo, mi lasci il numero che la faccio richiamare. Poi il cellulare è sempre spento. Alle 22:20... una pattuglia di polizia si presenta a casa dei genitori del ragazzo, ma non possono dir loro nulla, devono solo prenderli e portarli in questura. Alle 22:30, 10 minuti dopo, Bruno Vespa dà per primo le generalità complete del ragazzo. Carlo Giuliani, nato a Roma nel marzo 1978. Ma a quell'ora? Alle 22:30, i genitori sono ancora in viaggio, diretti in questura, e non sanno ancora nulla. È lo zio del ragazzo che chiama il papà al cellulare e gli fa: hai sentito? Queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa, andea. misura di braccio, a distanza di offesa, che alla pace si pensa e la pace si sfiora. Andiamo. Due famiglie disarmate di sangue. Mondalba, Mondalba, stiamo calmi, Mondalba, che adesso la polizia si diverte a massacrare la gente. Lo ha detto anche il comandante generale dell'arma dei carabinieri nel libro di Cicchitto, che i carabinieri a Genova non hanno fatto un uso spropositato delle armi da fuoco. Hanno sparato solo 17 volte. E non lo so perché Cicchitto non lo scrive nel suo libro quante volte hanno sparato. No, la polizia non si sa se hanno sparato. Vabbè, Mondalba, dovevano sparare tutti, doveva essere il Far West, eh? E comunque siamo un paese serio e abbiamo fatto lì una specie di commissione parlamentare di indagini, no? Capiamo, questo corteo era autorizzato. De Gennaro, capo della polizia italiana. No, il corteo non era autorizzato. Scajola, ministro dell'interno. No. Il corteo non era autorizzato. E soprattutto lui, Colucci, il questore di Genova. No, io non ho firmato nessuna autorizzazione. E vabbè, Mondalba. Colucci se l'era scordato che aveva autorizzato il corteo fino a Piazza Verdi. È un uomo impegnato, no? Non è che si può ricordare sempre tutto. Il Parlamento italiano ha lavorato per qualche mese su delle notizie false. Ah, Mondalba, e poi questa storia della Jeep che passa sopra il corpo due volte. Sì, ci è passata sopra due volte mentre il suo cuore lì batteva ancora. Ma non gli ha fatto nulla, nemmeno una frattura. Lo so che è strano che una Jeep di 2 tonnellate... vabbè, Mondalba, ma gli doveva per forza sfragugliare le brutella. Lo dice l'autopsia, Mondalba. Come? Vuoi vedere la memoria magnetica della TAC? Ah, mannaggia, Mondalba, non c'è più la memoria magnetica della TAC. Lo so che c'è l'obbligo di conservarla, soprattutto in questi casi. Ma che ci vuoi fare, Mondalba? È la mala sanità, Ah, Mondalba, non lo so perché non sono state controllate tutte le pistole di quelli che erano nella Jeep, come si fa in questi casi. Non lo so, Mondalba, perché i rilievi sulla Jeep li hanno fatti i carabinieri stessi, come si fa, come non si fa in questi casi. Comunque, Mondalba, siamo un paese serio e abbiamo nominato non uno, non due, ma ben 4 periti, Mondalba. Questi qua, Mondalba, sono periti famosi nel mondo delle perizie. Ho letto su internet, ad esempio, che alcuni di loro sono sindonisti. Dicono che la sindone è vera, ma non per fede. Loro lo dicono scientificamente, altro che l'analisi al carbonio, che dicono che quello lì è un pezzo di stoffa risalente al Medioevo. Eccoli qua, Romanini, Baloscini, Benedetti e soprattutto lui, Mondalba, il fantastico perito Torri. Torri è il non plus ultra dei periti italiani. È talmente bravo, pensa che praticamente lavora solo per lo Stato italiano. Che ti posso fare capire che cosa ha fatto Torri? Torri ha fatto la perizia su Cogne, chiamato da Taormina. Vabbè, su Cogne l'hanno fatta un po' tutti. Torre ha fatto la perizia sull'omicidio di Ilaria Alpi. Te la ricordi, no, quella giornalista comunista del TG3 che indagava giù in Somalia, che come racconta quell'altro frate comunista, com'è che si chiama? Ah, Alex Zanotelli. Sì, era la storia di questi aerei, no, che partivano da Roma carichi di aiuti, arrivavano a Palermo e diventavano carichi di armi e scorie e poi dritti in Somalia, no? Che c'erano invischiati la cooperazione italiana, i servizi segreti, la mafia e anche un pochino i socialisti. Torri ha fatto la perizia sull'omicidio di Ilaria Alpi e ha detto che quello lì di Ilaria Alpi, quella non è stata un'esecuzione mirata di un testimone scomodo. Quello di Ilaria Alpi è stato... No, per farti capire, Mondalbano, che Torri è un perito affidabile. Oh, la perizia di Torri dice che Plaganica non ha sparato deliberatamente su Carlo Giuliani, no. Plaganica ha sparato in aria. Lo proiettile nella sua traiettoria trascendentale si infrappò su un sasso calcinaccio volante che si trovava a transitare in quel momento al posto sbagliato al momento sbagliato, lo quale sasso, sfarinandosi, deviò il proiettile che assunse una traiettoria discendentale e colpì il Giuliani sullo zigomo sinistro. Lo so che sembra strano, Mondalba, ma vogliamo mettere in dubbio il lavoro di questi periti? Ah, no, Mondalba, i proiettili non sono stati trovati. I bossoli sì, la perizia sui bossoli, mi chiedi, Mondalba? Ma mica ne abbiamo fatta una di perizia, ne abbiamo fatte 3. No. Torri, dai, non fare sempre il solito perito, non puoi lavorare sempre tu, Torri. Dopo pensano che sei raccomandato. Oh, nominiamo altri 2 periti. Diteci un po', questi bossoli sono compatibili con la pistola di Plaganica, ovvero è stato lui a sparare? Ecco, secondo noi un bossolo è compatibile all'80%, l'altro al 20%. Ma che minchia di perizia è? Ma che vuol dire che sono stati 2 a sparare? Oh, mamma mia. Torri, dai, non ti fare pregare, questi qui non sanno come si lavora, non le sanno fare le perizie, Torri. La perizia di Torre dice che tutti e due i bossoli sono compatibili. Lo so che sembra strano, Montalbà. Allora noi che abbiamo fatto? Abbiamo rifatto fare una terza perizia ai due periti di prima, che forse si erano sbagliati. Sì, sì. Infatti il bossolo che noi prima quotavamo al 20%, adesso secondo noi è compatibile al 60%. Come dici, Montalbà? La pistola di Placanica sarebbe stata manomessa sul dente che dà l'imprinting ai bossoli che espelle. Ma chi te le dà queste notizie? Due giornalisti di Repubblica? Montalbano, andiamo, ma lo sanno tutti che Repubblica è un giornale filo-sovietico. Il GIP comunica il risultato di 22 mesi di indagine sulla morte di Carlo Giuliani. Tutti gli elementi dell'indagine, della cui competenza non si può dubitare, consentono con certezza di escludere che Placanica abbia deliberatamente diretto i suoi colpi verso Carlo Giuliani. Cosa vuoi ovvia, dico io, Montalbà, vedendo dove si è andato a infilare l'altro proiettile, che a 23 metri di distanza si è piantato nel muro a un'altezza di 5 metri e 10, con un'inclinazione verso l'alto di 10 gradi, che è chiaramente una beretta che sta sparando in aria. Come dice Montalbà? Le leggi dello Stato contro le leggi della fisica. Oh, Montalbà, io non ti capisco. Senti, spiegami un po' tu, perché qui la cosa si fa difficile. Il problema è nel video che riprende la scena. Il video dell'uccisione di Carlo Giuliani, video analizzato dai periti. Qui siamo dove è la Jeep. Qui il rumore dello sparo, lo sfarinamento del sasso sono eventi contemporanei. Lo sfarinamento del sasso viaggia verso la telecamera che riprende la scena alla velocità della luce. Il rumore dello sparo viaggia verso la telecamera che riprende alla velocità del suono, che è molto, molto più lenta. La telecamera riprende la scena a 35 metri di distanza. Certo, a occhio nudo la differenza non c'è, ma in una pellicola, dove c'è un fotogramma ogni tot centesimi di secondo, la differenza ci deve essere. E invece non c'è. Anzi, nella pellicola il rumore dello sparo e lo sfarinamento del sasso sono proprio sullo stesso fotogramma. Cosa vuol dire? Che su dove è la telecamera il rumore dello sparo e lo sfarinamento del sasso sono eventi contemporanei. 35 metri più in là, dove è la Jeep, sono eventi accaduti in momenti differenti. Quindi il proiettile non può aver fatto tutti questi giri. Quindi il Giuliani viene colpito quando gli si vede quello zampellio di sangue che gli esce dallo zigomo. Oh, Toro, mamma mia, Montalbà, Montalbà, quanto sei complicato. Aspetta un attimo che chiamo il perito Torre, che sicuramente potrà dare una spiegazione anche a questa cosa apparentemente inspiegabile. Torre dice che avevate ragione voi. Il sasso che si vede sfarinarsi nel video non viene colpito da nessun proiettile. Sì, l'aveva, sì, cade sulla seconda I della scritta Carabinieri sopra la Jeep. Sì, c'era un bozzo, sì, l'avevate detto. Vi stiamo dando ragione. Torre dice che il sasso che devia il proiettile è un altro, fuori l'inquadratura, virgolette, nel non visibile. E il Giuliani non viene colpito, dice Torre, quando gli si vede quello zampellio di sangue che gli esce dallo zigomo. No, dice Torre, quello lì che vedete non è sangue, quello lì è un riflesso del sole, come spesso capita nei video di bassa qualità. Quindi, per i periti italiani, della cui competenza non si può dubitare, quello che si vede, lo zampellio del sangue, quello lì è un riflesso del sole, e quello che è nel non visibile, quello è ciò che in realtà accade. Sabato 21 luglio del 2001. Nonostante la morte di un manifestante, i No Global confermano la manifestazione plenaria prevista per oggi. Sabato 21 luglio del 2001. Nonostante la morte di un manifestante, arrivano a Genova a protestare 300.000 persone. Oggi non ci sono nessuna piazza tematica. Oggi sfilano tutti insieme. Il corteo di 300.000 persone deve fare tutto il lungomare fino a Piazzale Kennedy, poi lì, oltre, c'è la zona rossa. Allora, a Piazzale Kennedy il corteo deve girare verso l'interno, arrivare nel piazzale del carcere di Marassi, dove ci sarà il comizio finale. Subito, mentre il corteo sfila, e un corteo di 300.000 persone impiega parecchie ore a sfilare, a Piazzale Kennedy, proprio davanti alle forze dell'ordine, si piazzano circa 200 violenti che cominciano a lanciare oggetti. Anche lì, al comando delle forze dell'ordine c'è Angelo Gaggiano, e lui le cariche le sa fare. Non è che per 200 violenti puoi caricare un corteo pacifico di 300.000 persone. E infatti Angelo Gaggiano, intervistato, dice che lui ha aspettato che il corteo pacifico finisse di sfilare e poi ha ordinato la carica. Non è vero che il corteo si è spezzato in due. Non è vero che c'erano poliziotti sui tetti che sparavano lacrimogene di sotto e motovedette nel mare. Non è vero che anche il lungomare di Genova è un imbuto. Non è vero che la carica si è spinta violenta fino a Punta Vagno. Non è vero che sono state picchiate donne, vecchi, disabili. Non è vero che c'era un furgone medico e che un poliziotto ha rotto il vetro e ci ha sparato dentro un lacrimogeno e dentro al furgone c'erano dei feriti. Tutto questo si può sentire molto chiaramente dalle registrazioni di Radio Gap. Tutto il corteo quindi arriva pacificamente a Piazzale Kennedy, c'è il comizio finale e poi tutti i manifestanti tornano tranquilli ai treni, ai pullman, ai dormitori. Senza nessuna caccia all'uomo quella notte per le vie di Genova. Intanto però dalla scuola Diaz vengono lanciati appelli attraverso Radio Gap, ma anche attraverso altre radio come Radio Popolare, per raccogliere testimonianze, denunce riguardo le violenze delle forze dell'ordine in quei giorni. Popolare Network, sono le 22:25, come promesso soprattutto tutti possono partecipare ovviamente, ma lasciamo la precedenza a chi sta tornando da Genova per raccontare quello che è successo, come è andata la sua manifestazione. Secondo me si spacca tutto perché c'è il piacere di farlo e perché è gente che ha un malessere, cioè questa gente è la gente veramente più debole della società. Io sinceramente che cosa avrebbe potuto... Senti, puoi aspettare un secondo? Sì. Eh? Sì. Puoi rimanere in onda? Sì, non c'è problema. Ok, grazie. Pronto? Sì? Sì, non posso stare troppo al telefono, scusa, ma siamo pochissimi noi qua dentro. Quella che sentiamo è Paola, che avevamo sentito prima dall'Information Media Center a Genova, il luogo dove il forum aveva il suo punto operativo. Paola, cosa sta succedendo? Mi stanno assaltando. Come sono arrivati, la strada è in discesa, sono arrivati di botto dalla discesa, ci stanno assaltando. Noi siamo due scuole, una di fronte all'altra, nell'altra ci si dorme solo, non noi, altre persone. Sono arrivati, stanno sfondando i cancelli, stanno tirando... Guarda, è una situazione indescrivibile e insostenibile. Chi è che vi sta assaltando? La polizia. La polizia? Sì. È tutta polizia, è arrivata a piedi, di corsa, sbucando dall'angolo, quindi senza neanche un preavviso, nulla. Noi adesso ci stiamo barricando dentro, il problema è l'altra scuola, dove ci sono anarchici e squatter, e in questo momento li stanno massacrando. Ma quindi questo sta avvenendo nella scuola di fronte a dove siete e voi nella nostra, e anche nella vostra? Stanno cercando di entrare anche nella nostra. Noi stiamo cercando di sbaraccare tutto, stiamo togliendo tutta la roba. Io vi devo salutare perché comunque dobbiamo essere assolutamente tutti quanti presenti. Siamo pochissimi, stiamo aspettando Vittorio Agnoletto, che abbiamo appena chiamato e sta arrivando. Non so, se voi avete numeri di parlamentari di qualcuno, chiamate qualcuno, perché noi non siamo in grado di fare tutte le cose insieme. D'accordo, d'accordo, a più tardi. Massimo Ribotto. Mondalba, stiamo calmi perché la perquisizione alla Diaz è giustificata, in quanto Mondalbano, una pattuglia comandata dal vicequestore Di Bernardini, transitante in via Cesare Battisti, tale pattuglia, Mondalba, è stata assalita da centinaia di manifestanti mentre passava davanti alle due scuole, con i manifestanti inferociti che hanno tentato di strappare fuori dalle volanti gli agenti, che si sono salvati solamente azionando i lampeggianti e fuggendo a gambe levate, Mondalba. L'assalto alla pattuglia del vicequestore Di Bernardini c'è stato alle 21:30, Mondalballo, dice il verbale. La riunione operativa in questura per decidere come fare la perquisizione c'è stata mezz'ora prima, alle 9. Lo so, Mondalba, che è strano, che prima si fa una riunione operativa per decidere come fare una perquisizione e poi mezz'ora dopo ci stanno i motivi per cui la perquisizione va fatta. E vabbè, Mondalba, si chiama o non si chiama polizia di prevenzione? Perché prevede, no, Mondalba? E poi questa storia che hanno agito senza mandato. Sì, è vero, Mondalba, non ce l'avevano il mandato, ma non gli serviva. Te lo ricordi lì, Mondalba, come si chiama? L'articolo 41 del TULPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Eccolo qua, che dice che la polizia, per la ricerca di armi, se la cosa è urgente, può procedere a perquisizioni anche senza preavvertire l'autorità giudiziaria. E non lo so, Mondalba, perché hanno avuto tempo di fare riunioni in questura, sopralluoghi, ma non hanno avuto modo di avvertire l'autorità giudiziaria. Era sabato sera, Mondalba, no? Non è che l'autorità giudiziaria sta lì a aspettare di firmare i mandati. E poi che bisogno c'era, Mondalba? Su, erano violenti. Per prima cosa hanno tentato di accoltellare un agente. E poi le armi che hanno trovato. Dico, Mondalba, l'hai mai letto l'intero verbale di sequestro? Non l'hai letto, eh? Ora te lo leggo io. Numero 21 coltelli modello svizzero, patata o da cucina. Numero 1 catena in ferro legata a una camera d'aria. Numero 6 mazzette in alluminio ricurve. Numero 1 forbici da cucina. Un set da tasca di chiavi esagonali e cacciavite. Due mazze da carpentiere. Un piccone. Una pala da carpentiere. Mezza bottiglia in plastica contenente chiodi di varie misure. Un tubo innocenti. Una criptonite con due chiavi. 5 bombolette di vernice spray. 2 termos. 4 cinte o cinghie. 11 maschere antigas, 8 maschere da subacqueo, 13 occhialetti da subacqueo, 3 caschi da motociclista, 2 caschi da cantiere, un brandello di bandiera rossa con pugno giallo chiuso e scritta SVP, una parrucca di colore castano, un rotolo da imballaggio, 5 passamontagna modello Mephisto, 6 rullini, 3 cassette audio, 3 cellulari, 17 macchine fotografiche, 2 Walkman, un'agendina, uno striscione, 60 magliette nere. 15 pantaloni neri, 17 giubbotti neri, 5 sciarpe nere, 4 cappelli, modello zuccotto, di colore nero, una pettorina gialla con scritto giornalista, una videocamera digitale marca JVC, un occhiali da vista marca Neo Style, una torcia elettrica, un beauty case, un biglietto aereo e poi Mondalba, 2 bottiglie contenente liquido infiammabile innesco cosiddette Molotov. Signori e signori, il nostro presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. La notizia che mi è stata data è una notizia tendente a chiarire che non c'è una distinzione tra coloro che hanno operato la violenza e la guerriglia e gli esponenti del Genova Social Forum, che anzi, per la notizia che mi è stata data, avrebbero favorito e coperto questa loro presenza. Sono violenti, Montalbà! Sono violenti, Montalbà! Non bisogna della regione del globo al Montalbà! Sono violenti, Montalbà! Che ci frega della fame nel mondo, Montalbà! Sono violenti! Scuola Diaz, le testimonianze. In via Cesare Battisti ci sono due scuole, una a destra e una a sinistra della strada. A destra c'è la ex scuola Diaz, attuale scuola Pertini, di proprietà della provincia. Sulla sinistra c'è la scuola Diaz Pascoli. Nella ex scuola Diaz c'è il dormitorio. Tutti i giornali sbagliano a chiamarla scuola Diaz perché la scuola Diaz in realtà è dall'altra parte della strada, è del comune, dove c'è il media center, dove c'è la redazione di Radio Gap e lo studio delle GAI. A sera arrivano da entrambi i lati della strada centinaia di poliziotti, uomini delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Tutti i ragazzi che stavano davanti alle scuole entrano dentro le scuole, o entrano dentro l'una, dentro l'altra e si chiudono dentro. In strada rimane da solo Mark Cowell, giornalista inglese della BBC, redattore di Indie Media. Si dirige da solo verso centinaia di poliziotti in tenuta antisommossa che corrono verso di lui gridando. Poco dopo Mark Cowell è in coma. Svariati denti rotti, costole rotte, alcune delle quali gli hanno perforato un polmone. Poi la polizia si accanisce contro il cancello della ex scuola Diaz. Non ce la fanno a rompere la catena con i manganelli, lo sfondano con un furgone, poi aprono la porta. Come entri nella ex scuola Diaz? Come entri c'era la palestra. Quella notte è un dormitorio. A quell'ora le persone già stavano nei sacchi a pelo per addormentarsi. Dentro alla palestra c'è Lorenzo Guadagnucci, giornalista del Resto del Carlino, e vede, racconta quello che vede quella sera. Vede entrare i poliziotti in tenuta antisommossa dall'altra parte della stanza e si accaniscono subito contro dei ragazzi che stavano dormendo nei sacchi a pelo con i manganelli. Bot, manganelli, sangue, bot, manganelli, sangue. A fianco a lui c'è una coppia di fidanzati, forse tedeschi, e vede un poliziotto che attraversa, scavalcando gli altri ragazzi nei sacchi a pelo, attraversa tutta la palestra e dà un calcio alla ragazza che è proprio di fianco a lui, come se fosse un pallone da calcio a mezz'aria. Poi tocca al fidanzato e poi tocca a lui. Botta, manganelli, sangue! E lui si qualifica: sono un giornalista, sono un giornalista! Botta, manganelli, sangue! Botta, manganelli, sangue! Sara, 21 anni, è al primo piano della ex scuola Diaz mentre si sta lavando i denti con un amico al bagno. Doveva passare per la scuola Diaz a prendere lo zaino, poi doveva andare in stazione e tornarsene a Milano. E sente i rumori di sotto, le grida, non capisce che succede. Esce fuori dal bagno, vede lungo il corridoio tutta la gente che scappa, urla, scappa verso i piani più alti. Lei non capisce che succede, pensa a un attacco dei Black Bloc e allora che fa? Scappa anche lei, su, verso l'alto, insieme agli altri. L'ultima porta, l'ultimo piano in fondo, si chiudono dentro, è un bagno al buio. E sente i rumori da sotto che si avvicinano. Tonfi e grida, sempre più vicini, tonfi e grida, sempre più vicini. Poi sono sul piano e poi la porta del bagno che si apre, un poliziotto, botta manganelli sangue, botta manganelli sangue, botta manganelli. Però Sara è una ragazza carina. Perde tanto sangue dalla testa e dentro quel bagno ci deve stare proprio male. Allora un poliziotto la prende e la porta fuori. Uno solo. E gli altri le sputano addosso. Le gridano, vogliamo vedere se al prossimo G8 ci sarete. Altri due ragazzi che dormono di sotto in palestra. Sono velocissimi, come sentono i rumori fuori. Prima di capire quello che succede riescono a uscire da sacchi a pelo, infilarsi i pantaloni, arrotolare i sacchi a pelo, chiudere gli zaini e salire di un piano. La ex scuola Diaz era in ristrutturazione. Uno dei due apre la finestra, salta sull'impalcatura e scappa, si salva. E anche l'altro salta ma gli si impiglia lo zaino contro la finestra e dice a quello dietro, liberami. Però poi vede la polizia che è già lì sul piano, gli dice di fermarsi e allora scende giù e si consegna, botte manganelle sangue. Che brutto posto per fermarsi, proprio sulla tromba delle scale. Il primo gruppo di poliziotti sale, arriva il secondo, botte manganelle sangue. Tutti quelli che passano gli lasciano un ricordino, botte manganelle sangue. Gli si sono rotti gli occhiali, non vede nulla. Non sa quanto rimane lì a terra, poi qualcuno lo prende e lo porta al piano di sotto. Intuisce uno spazio vuoto fra altri corpi doloranti a terra e ci si butta. Aspetta i soccorsi per circa mezz'ora. Poi in barella all'uscita un poliziotto lo vuole perquisire e lui gli dice non ce li ho i documenti mi sono caduti sopra, su, sull'impalcatura. Allora il poliziotto gli tasta il pene e gli fa ti piace, eh? Niente luna questa sera, niente gatti sopra il tetto, i miei sogni sono tutti rotolati sotto al letto, e nel buio con la lingua conto i denti che mi restano, domani che farò, ragazza mia, dei tuoi pensieri magri. Fuori dalla scuola arriva Sgalla. Sgalla è il portavoce ufficiale di tutta la polizia italiana. Mentre escono feriti più o meno massacrati, lui rilascia interviste. Sono interessanti queste interviste. Una la comincia dicendo, e non voglio che diciate che quelle armi le abbiamo messe noi, eh? Dice che sono state trovate tutte le divise dei neri, ma non parla ancora delle Molotov. Come se non le avessero ancora trovate. Strano. E fuori arrivano anche parlamentari, avvocati. E c'è una legge che dice che loro possono assistere alle perquisizioni, ma non quella sera. Questa sera è diverso. All'inizio l'unica parlamentare presente è la Morgantini. È un europarlamentare di Rifondazione Comunista. Quando viene raggiunta da Radio Popolare per un'intervista, praticamente sta quasi piangendo. È vero, non arriviamo ai campi di concentramento che ci sono stati in Cile e nel stadio, e non arriviamo a avere un garage Olimpo. Ma perché? Perché non è necessario. Che pensiamo? Che la polizia chi difende? In che sistema viviamo? Quando ti dicono, ci ha caricato la polizia, ci ha distrutto, eccetera. È vero. Puoi aspettare un secondo? Sì, attendo quello che vuoi. Ok. Al telefono abbiamo Luisa Morgantini, europarlamentare di Rifondazione Comunista, che si trova all'interno della scuola. Cosa sta succedendo? Guarda, qui è arrivata la polizia. Sono entrati, hanno sfondato con le jeep. Adesso stanno arrivando anche i giornalisti perché li abbiamo chiamati, hanno sfondato, sono entrati, hanno messo tutti con le mani contro il muro e quindi adesso stanno portando via i ragazzi. Adesso sto cercando, scusatemi moltissimo, ma devo andare a trattare. Devo andare a trattare con il capo della polizia perché stanno tirando via i ragazzi. Ci risentiamo allora. Poi sono l'unica qui dentro. Quindi... Certo, avvicinati pure ai poliziotti. La polizia entra anche nell'altra scuola, la Diaz Pascoli, dove c'è il Media Center. Lì non picchia brutalmente chi c'è dentro, si limita a perquisire, tra virgolette, lo studio dei legali. Lo studio dei legali del Genova Social Forum, in quella stanza ci sono 4 computer, 3 li usano gli avvocati, uno a disposizione di tutti gli altri. La polizia distrugge i computer degli avvocati, distrugge, poi sono degli ottimi soprammobili, e gli hard disk scompaiono. Non risultano più nessun verbale di sequestro. Dispiace, perché in quegli hard disk c'erano tutti i dati, le testimonianze riguardanti le violenze delle forze dell'ordine. Per entrare a fare una perquisizione in uno studio legale occorre una montagna di permessi. Quanti gliene saranno serviti per distruggerne uno? All'una di notte la polizia si ritira, ma non mette sotto sequestro nessuna delle due scuole. Lascia tutto aperto, abbandonato. Anche l'ex scuola Diaz, dove dentro dicono che c'è stato un tentato omicidio nei confronti di un agente. E tutti quanti possono entrare. Fra i primi che entrano ci sono i giornalisti. Uno dei primi è Fausto Pellegrini, un giornalista di Rai News 24. A Fausto Pellegrini gli tremano le gambe, perché lui aveva trovato posto in albergo solo fino al giorno prima. Poi per caso si era liberata la stanza ed è potuto rimanere in albergo, se no la Diaz pensava di dormirci anche lui. Entra dentro, è in diretta, e segue piccole goccioline di sangue che terminano in veri e propri laghi, su tutti i piani. No! Quello lì non è sangue. Così dice qualche giornale libero, per giorni. Quello lì è mercurio cromo. Ma è un po' tanto. Chiazze di pomodoro. E che facevano, la sagra della pasta asciutta? E vabbè, un po' di sangue dal naso. All'ospedale San Martino lavora la Trotta. La Trotta lavora all'ufficio pubbliche relazioni dell'ospedale, è un impiegato pubblico. Racconta quello che vede quella sera. Arriva il primo ferito, mi pare fosse Cowell. Arriva in un'ambulanza, priva di scritte ma piena di militari. Si apre il portellone e un poliziotto grida: «Ehi, qua c'è un tossico in crisi d'astinenza! Ecco chi c'è al Genova Social Forum!» Poco dopo, racconta la Trotta, lo stesso poliziotto ripete la storia del tossico. Dice che anche l'AIDS. Per tutta la notte, la Trotta ha detto che ha sentito i poliziotti descrivere con dovizia di particolari sadici come picchiare meglio, come fare più male. Li abbiamo congiati così in pochi minuti, ma se me li lasciavano una settimana ci pensavo io a congiarli per le feste. Guarda, quegli stronzi mi hanno sporcato le scarpe di sangue. La Trotta ha dichiarato queste cose davanti alla commissione parlamentare d'indagine, ma non è stata né querelata né smentita. La polizia non ha ferito nessuno. Quelli lì erano manifestanti che si erano fatti male la mattina, nella carica sul lungomare, e poi, per paura dei controlli, non erano andati a farsi vedere in ospedale. Mark Cowell, in giro un'intera giornata per i sali e scendi di Genova, in coma, con i denti in meno, le costole rotte e un polmone perforato. Una roccia. Alla scuola di Ezza vengono arrestate 93 persone, feriti 69, di cui con trauma cranico 46. Ma le violenze, chi le ha fatte? Fra i primi ad essere accusati sono quelli del settimo nucleo sperimentale, guidati da Vincenzo Canterini. Vincenzo Canterini di solito comanda la mobile di Roma. Però a quelli del settimo nucleo sperimentale non gli sta bene di essere additati come violenti e spuntano fuori alcuni verbali, tra cui quello di Tucci e quello di Furnier, che è il vice di Canterini. Nei verbali c'è scritto che quando loro, gli uomini del settimo, sono arrivati ai piani, c'erano già uomini di altri reparti che stavano picchiando selvaggiamente gente inerme. Ah, allora le violenze ci sono state. I verbali, naturalmente, sono usciti fuori perché qualcuno li ha presi e li ha spediti ad alcuni giornalisti, tra cui Carlo Gubitosa, che ha scritto il libro Genova nome per nome, che è il libro che ha reso possibile questo spettacolo. La scuola, poi, rimane aperta. Tutti quanti possono entrare. E sembrano i manifestanti stessi, quelli più interessati, fin dall'inizio, a conservare le prove. Sono loro che mettono un cartello all'entrata: «Please, don't cliente blood, per favore, non lavate il sangue». Ma queste scuole di chi sono? Sono due giorni che sono sempre aperte. Marta Vincenzi è la presidente della provincia di Genova. Sente parlare i giornali di scuola Diaz e Marta Vincenzi sta tranquilla. La scuola Diaz è dall'altra parte della strada, è del comune. Poi vede le immagini e si accorge che quella lì è la ex scuola Diaz, che è della provincia. Sono passati due giorni. Va lì, fa un sopralluogo, vede tutto aperto, abbandonato, chiama in questura. No, dalla questura non mandano nessuna pattuglia. Allora Marta Vincenzi mette a protezione della ex scuola Diaz la polizia provinciale. E le armi, poi, sono state tutte quante raccolte e buttate dentro un borsone di un sacco, senza preservare in alcun modo le impronte digitali, compreso il coltello che sarebbe stato usato per tentare di uccidere un agente. E poi perché i poliziotti hanno agito a volto coperto? Se avevano deciso già da prima, dalla riunione operativa, di non usare i lacrimogeni, perché? Perché hanno agito a volto coperto? Che era? Per non farsi riconoscere? Sì, dice Colucci, il questore di Genova. Questa cosa del volto coperto potrebbe essere stata usata da qualcuno per coprire delle intemperanze. Oh. Ma chi è che ha deciso le modalità operative? Chi è che ha deciso come fare questa perquisizione alla scuola Diaz? Le modalità operative non le ha decise nessuno. Andreassi, il numero 2 della polizia in Italia, dice che lui non ha sollecitato o promosso alcuna iniziativa. Colucci, il questore di Genova, dice che lui ha abbandonato la riunione prima che fossero decise le modalità operative. Gratteri dice che nemmeno il vice capo della polizia Andreassi era presente. Canterini, il capo del settimo, dice che lui voleva usare lacrimogeni e aspettare che i manifestanti uscissero da soli. La Barbera dice che lui ha raccomandato prudenza e Mortola, che è uno di quelli che conta di meno, dice giustamente che le decisioni sono state prese dai massimi responsabili presenti. E De Gennaro? Il capo della polizia italiana sapeva qualcosa della perquisizione alle Diaz? No, dice De Gennaro. Io della perquisizione alle Diaz non ne sapevo niente. Però viene smentito, sia dalla Barbera, che fa riferimento a una telefonata avuta con lui in merito all'irruzione alla Diaz, che da Colucci, il questore di Genova. Colucci dice che Sgalla, il portavoce ufficiale di tutta la polizia italiana, era presente sul posto perché mandato da De Gennaro, il capo della polizia italiana. ma erano violenti. Hanno tentato di accoltellare un agente. L'agente scelto Massimo Nocera ha dichiarato che quando è entrato in una stanza buia dell'ex scuola Diaz non si è accorto che qualcuno ha tentato di accoltellarlo. Gli ha dato una coltellata proprio all'altezza del cuore e si è salvato solamente grazie al giubbino protettivo, e se ne è accorto dopo quando ha visto il taglio sul giubbino e il coltello che sarebbe stato usato. Allora che fa l'agente Nocera? Scrive il suo verbale e manda la sua versione dei fatti al RIS di Parma, la scientifica. La scientifica però gli dice: guardi Nocera, che la sua versione dei fatti è incompatibile sia coi tagli sul giubbino che col coltello che è stato usato. Però bisogna informarsi bene. Allora ogni tanto, quando mi capita sotto mano, leggo anche il giornale, ma proprio il giornale, perché ci si trovano notizie nuove e interessanti. Il caso di Massimo Nocera. Aggredito, dice la perizia, al PM non basta. Ma guarda un po', c'era stata una nuova perizia e io non ne sapevo niente, neanche il manifesto ha detto nulla. E una perizia che dà ragione all'agente Nocera, che sembra che è stato veramente aggredito. Poi leggo l'articolo. Ma anche laddove gli argomenti della logica avessero dovuto fallire, a demolire il teorema accusatorio del PM ci aveva pensato la perizia del professor Carlo Torre. Le armi. La ex scuola Diaz era in ristrutturazione. Quelle armi erano un po' strane, neanche i minatori rumeni nei loro scioperi si erano mai visti armati di picconi, pale. Allora Carlo Gubitosa, l'autore del libro Genova nome per nome, che fa? Va alla ricerca di un fax che l'impresa edile Tecnoconsul, che gestisce i lavori di ristrutturazione, ha mandato in provincia con l'elenco del materiale che manca dopo la perquisizione della polizia all'interno della Diaz. Nell'elenco del materiale che manca ci sono pale, picconi, mazze, però non vuol dire niente. Allora Carlo Gubitosa che cosa fa? Va a intervistare Luigi Del Papa, che è il capocantiere della Tecnoconsul. Lo va a intervistare e il capocantiere gli dice: «Oè, non va più via. Il sangue, dalle finestre, in alcuni punti non va più via, certe finestre le abbiamo proprio dovute sostituire». E poi gli dice il capocantiere: «Sì, quelle armi, quella roba, era tutta roba nostra. La tenevamo chiusa dentro delle aule, chiusa a chiave, e in quelle aule non c'era traccia del passaggio dei manifestanti, sembravano tutte aule aperte dalla polizia, perché sulle porte, che sono state sfondate, c'era l'impronta di un anfibio». E poi continua il capocantiere, gli dice: «Guardi, lo sa, c'era un bidello che teneva chiuso a chiave nel suo cassetto il suo coltellino svizzero, e dopo la perquisizione della polizia quel coltellino non l'ha trovato più». E le due bombe Molotov. La mattina di sabato, durante la manifestazione, sul lungomare. E poi il pomeriggio, qualche ora dopo, due agenti, Guaglione e Piccolotti, che camminano sul lungomare e vedono, in un angoletto, due bombe Molotov. Una boccia di Merlot e una boccia di Colli Piacentini. Le raccolgono, le devono portare in questura, ma vedono passare in quel momento una jeep della Mobile di Roma, quella che di solito comanda Canterini. Allora la fermano e gli dicono: «Ehi, collega, le portate voi queste due Molotov in questura?» Però poi queste due Molotov scompaiono. C'è solamente il verbale di ritrovamento di Guaglione e Piccolotti, non c'è il verbale di deposito in questura. E allora il PM, che indaga sul caso delle Molotov e della Diaz, si insospettisce. Vuoi vedere che queste due Molotov sono le stesse? Allora chiama un altro PM a Bari, perché Guaglione è di Bari, e gli dice: «Guarda, io ti mando la foto delle Molotov trovate alla Diaz. Falle vedere all'agente Guaglione, ma non gli dire che sono le Molotov trovate alla Diaz, chiedigli solamente se le riconosce». E l'agente Guaglione avrebbe confermato che si trattava proprio delle Molotov che aveva trovato lui la mattina, il pomeriggio, sul lungomare. Da-da! Il caso delle Molotov viaggianti. Il primo ad essere iscritto nel registro degli indagati è Di Bernardini. Di Bernardini dice: «Oh, calma, io non c'entro niente. Io le Molotov le ho viste in mano all'agente Troiani». Troiani. Troia, Troia, Troietta, Troiona. Troiani non c'è nell'elenco dei poliziotti che hanno agito alla Diaz. E Troiani se lo sono dimenticato, eccolo qua. Intanto, i due giornalisti di Repubblica, che seguono il caso delle false Molotov, vengono indagati per pubblicazione di notizie coperte da segreto istruttorio, ma uno dei due non molla la pista delle Molotov e pubblica un altro articolo. È una confessione dell'agente AB, che dice: «Sì, le Molotov le ho portate io nella scuola, su ordine di Troiani». Oh, scoppia lo scandalo! Tre poliziotti hanno sbagliato, no? Può succedere! Ci siamo scandalizzati tutti? Sì? Oh, adesso possiamo vivere tutti più tranquilli. Poi però sbuca un video. È un video dell'emittente genovese Primo Canale. Primo Canale decide di non trasmettere quello che probabilmente sarebbe stato l'unico scoop televisivo della sua storia. Poi il video viene messo sotto sequestro dalle autorità, ma alcuni giornalisti riescono a vederlo e a raccontare quello che nel video si vede. Si vede, davanti alla scuola Diaz, intorno alla busta con dentro le Molotov, il gota della polizia italiana, presente a Genova in quei giorni. Scajola, il nostro ex ministro dell'interno. In più occasioni è emersa la preoccupazione che possa essere limitato il pieno esercizio della libertà di manifestare. Intendo fugare tali ingiustificate preoccupazioni. Il governo Berlusconi non attenuerà mai il livello delle garanzie riconosciute a tutti i cittadini di esprimere pacificamente e democraticamente il dissenso. Domenica, 22 luglio, il giorno dopo la perquisizione. Di tutti gli arrestati non si ha più alcuna notizia. Scompaiono. Ci sono alcune centinaia di desaparecidos a Genova. Per tutti, i genitori di Sara, la ragazza carina che si lavava i denti in bagno alla Diaz. Loro non hanno più notizie della figlia, non è mai arrivata a Milano. E allora chiamano in questura. No, signora, nessuna notizia. No, signora, nessuna notizia. No, signora. Ehi, signora, tranquilla. Vostra figlia è stata ricoverata nella notte per trauma cranico, ma adesso sta in carcere ad Alessandria. Pronto, signora? No, non strilli, signora. Come dice? Ad Alessandria non risulta in carcere. Ah, e provate un po' a Voghera. Pronto? Ah, no, no, Voghera. Provate un po' a Pavia. Padova? Vercelli? Signora, ma avete chiesto bene al carcere di Alessandria? Sara sta a Bolzaneto. I racconti di chi c'è stato a Bolzaneto sono assurdi. E io non ci credevo. Perché pensi, quella lì ormai è gente inerme, che non può subire trattamenti del genere. Poi però sbuca una lettera. È una lettera di un infermiere che lavora per la penitenziaria, proprio lì a Bolzaneto. Si chiama Marco Poggi. Inizia la lettera chiedendo scusa perché non ha parlato prima, perché aveva paura. Poi però conferma tutti i racconti dei manifestanti, pestaggi gratuiti, niente vetri alle finestre, niente coperte. La gente è costretta a rimanere in piedi per ore, anche uno con una protesi alla gamba. Se non ce la facevi venivi manganellato, non venivi mandato al bagno. Pestaggi al bagno. Addirittura parla di un poliziotto che faceva sentire la musichetta di Faccetta Nera attraverso le sbarre del carcere. E poi, di lettera, ne sbuca un'altra di un altro infermiere, un collega di Marco Poggi, che anche lui lavorava per la penitenziaria. Si chiama Ivano Pratassoli. E Castelli, il nostro ex ministro della giustizia, che risposta dà alla lettera di Marco Poggi e ai trattamenti della caserma di Bolzaneto? Castelli dice che, in merito ai lunghi tempi di permanenza in piedi all'interno della caserma di Bolzaneto, io sono anni che lavoro nelle fabbriche. E i metalmeccanici lavorano in piedi dalla mattina alla sera e io non li ho mai sentiti lamentarsi. Gli ultimi istanti di Radio Gap. Amici ascoltatori, un momento molto tragico. I telefoni sono isolati, okay, speriamo sì, che le comunicazioni comunque continuino a funzionare. Ecco, chiamiamo l'ANSA, è dentro al cortile. Bene, ascoltatori, ufficiale, sono qui dentro, sono nel cortile, non sappiamo quello che succederà. Cerchiamo di fare qualcosa, di non perdere il controllo. Stanno assaltando il Media Center di via Cesare Battisti qui a Genova. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati, siamo come topi in trappola, cercheremo di tenermi infortunati fino a quando ovviamente sarà possibile. Io non me ne vado dal mix finché non mi ci trascinano via. Stanno cercando di sfondare la nostra porta al secondo piano. Bene, mani alzate, resistenza passiva. Ragazzi, uno sgombero in diretta. Radio Gap, ragazzi, sta per essere sgomberata. Manteniamo la calma. Seduti e mani alzate. Ok. Tutti con le mani alzate. Leviamo quel tavolo. Noi non abbiamo nulla da nascondere per nessuno. Noi non abbiamo nulla da dire, non abbiamo nulla. I telefoni sono isolati. Non abbiamo nulla da nascondere, ci hanno isolato i telefoni, probabilmente ci hanno anche tagliato. Ci hanno tagliato le linee, sì. Ci hanno tagliato le linee, non sappiamo se ci stanno ascoltando anche da qui. Bene, 40 persone all'interno della diretta, dello studio di diretta di Radio Gap. Siamo tutti con le mani alzate, aspettiamo la celere che sta sfondando la porta del nostro secondo piano. L'invito è a mantenere la calma anche se è difficilissimo. La porta per il momento rimane chiusa, a secondi sarà aperta. Ragazzi, è un momento veramente difficile. Ecco, sentiamo anche i rumori. Non siamo isolati con i telefoni. Bene, cerchiamo di telefonare e di comunicare, ragazzi, con l'esterno. Diffondete la notizia a tutti gli amici ascoltatori. Stanno sfondando Radio Gap. Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla, stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla, continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale. Eccoli, e questa fascista fascista sono che è entrata i poliziotti nella radio. Sede di una radio. Manganelli in mano. E vabbè, Mondalba, vabbè, Mondalba, abbiamo capito. Ma poi non l'hai letto i titoloni sui giornali qualche tempo dopo? Saltano tre funzionari, tre altre cariche della polizia rimossi a causa dello scandalo sul G8. Tre funzionari. Però non è vero. Andreassi, il numero 2 della polizia italiana, sostituito da Manganelli, dopo un po' diventa il numero 2 del SISDE. Colucci, il questore di Genova, dopo un paio di anni di quarantena, ridiventa questore a Trento. La Barbera, prima di morire per tumore, era diventato vice capo del CESIS. Gratteri, ai vertici dell'antiterrorismo. Mortola, a dirigere la polizia postale e telematica. Canterini è questore. E Mondalbano, eh? Mondalbano invece che ha fatto tutte queste indagini, a Mondalbano una bella promozione, quando gliela danno, eh? E Mondalbano è un poliziotto che non esiste. Al funerale di Carlo Giuliani, racconta il cronista di Radio Popolare, dice che dietro, sullo sfondo, dietro la bara, c'era un cartello indirizzato ai politici, allo Stato, alla polizia. Nel cartello c'è scritto: non possiamo costringervi a dire la verità, ma possiamo costringervi a mentire, più palesemente. Io la mamma di Carlo Giuliani l'ho vista 2 volte. La prima volta era qualche mese dopo il G8. Ero sul 60, andavo dalla mia ragazza sulla fermata Nomentana Valdossola e me la trovo davanti. Era l'ora in cui i ragazzi escono da scuola. Quando i ragazzi escono da scuola parlano ad alta voce, parlano, ridono. Io sembravo l'unico che l'avevo riconosciuta e la guardo, mi guarda. Poi scendo dall'autobus e l'immagine è un volto scuro che si allontana dentro un autobus pieno di ragazzini che parlano forte e ridono. La seconda volta invece era lei a vedere me, era a vedere questo spettacolo a Terni. E l'immagine è un volto tranquillo che mangia. Mangia. A chi esita, di Bertolt Brecht. Voi dite, per noi va male, il buio cresce, le forze scemano. Dopo che si è lavorato tanti anni, noi siamo in una condizione più difficile di quando si era appena cominciato. E il nemico ci sta dinanzi, più potente che mai. Sembra che gli siano cresciute le forze. Ha preso un'apparenza invincibile. E noi abbiamo commesso degli errori. Non si può più mentire. Siamo sempre di meno. Le nostre parole d'ordine sono confuse. Una parte delle nostre parole le ha prese il nemico, le ha stravolte, fino a renderle irriconoscibili. Che cosa è falso di quel che abbiamo detto? Qualcosa o tutto? Su chi contiamo ancora? Siamo dei sopravvissuti respinti via dalla corrente? Resteremo indietro senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi? O dobbiamo sperare soltanto in un colpo di fortuna? Questo voi chiedete? Non aspettatevi nessuna risposta oltre la vostra. Tento la fuga in tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della vagina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barba un pettirosso da combattimento. Non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La domenica delle salme non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tua colpa affollarono i parrucchieri.

Quando abbiamo deciso di affrontare questo tema, di provare a parlarne, a sviscerare questa questione che ci sta a cuore da molto tempo, ci siamo detti che forse per parlarne non eravamo le persone giuste, le persone adeguate, le persone anche con l'autorevolezza per farlo, e che forse gli unici a poter avere una sufficiente autorevolezza sarebbero stati o degli scienziati, qualcuno che in qualche modo l'ha studiato in modo approfondito, che quindi ha una competenza, una conoscenza e anche una capacità di leggere una serie di dati e di provare a formulare delle previsioni. Però forse non era l'angolazione che più ci interessava. Le altre persone che abbiamo ritenuto potessero parlare di futuro erano i bambini, perché sono coloro che lo dovranno vivere questo futuro, e anche perché crediamo nella loro capacità intanto di entrare in relazione con il pubblico, di parlare da una parte senza peli sulla lingua, dall'altra senza retorica, e senza in qualche modo che chi li sta ad ascoltare si possa chiamare fuori, perché quello che loro raccontano, dicono, in qualche modo li chiama in causa, ma li chiama in causa senza puntare il dito, con una modalità che potrebbe in qualche modo creare una ritrosia da parte del pubblico, una distanza. Ecco. Qual era stata la prima scintilla che vi ha fatto venire in mente il progetto? Forse sono stati questi 10 anni, quindi una scintilla che un po' alla volta è diventata sempre più grande, si è fatta falò, in cui siamo stati a vivere in mezzo alla campagna e in cui una serie di contraddizioni in cui siamo immersi sono diventate sempre più tangibili. Di sicuro anche questi 2 anni di pandemia hanno avuto il loro peso, la loro rilevanza in tutto questo, perché è come se ci avessero costretti ad aprire gli occhi, non che prima non ne fossimo consapevoli, ma sono stati un elemento ulteriore che ci ha portati a riflettere sul nostro modo di abitare questo pianeta, di dare per scontato che ci sarà sempre e che in qualche modo possiamo fare il bello e il cattivo tempo senza curarci del fatto che in realtà forse non tutto è scontato. Come avete pensato la messa in scena, considerato, ecco, la presenza di bambini? È una messa in scena che porta avanti la nostra poetica, il nostro modo di costruire gli spettacoli attraverso parole ed immagini che si susseguono, si alternano, si contraddicono anche, e quindi è una messa in scena che ha molto a che fare con un montaggio all'interno dei quali i bambini si muovono con la massima tranquillità e padronanza, perché le scene sono nate con loro, insieme a loro, sono state cucite su di loro, e anche tutti i testi che loro dicono sono testi che loro hanno conosciuto, hanno sentito fin dal loro nascere, e che sul palcoscenico risuonano non soltanto attraverso le loro voci, ma anche attraverso delle parole scritte, che permette al pubblico e allo spettacolo di farle in qualche modo raddoppiare di importanza, e dall'altra parte di essere a figlio per qualsiasi momento di difficoltà, che tale non deve essere per i bambini che sono sul palco. Come sono stati i riscontri, soprattutto dei più giovani? Lo spettacolo mi sembra che risuoni in modo forte, come dicevo è uno spettacolo che vede in scena 2 bambini, ma pensato per parlare con un pubblico adulto, e però ovviamente bambini sono venuti a vedere lo spettacolo e l'hanno letto a loro modo, e inoltre il fatto di vedere e ritrovare altri bambini sulla scena a parlare ad una platea è di sicuro una spinta verso un futuro, verso una possibilità di assunzione non tanto di responsabilità, ma di autonomia e di forza. Ci dai tutti i riferimenti web per la compagnia e per questo lavoro? Ci potete trovare su Facebook Babilonia Teatri, su Instagram o altrimenti anche sul nostro sito babiloniateatri.it, trovate tutte le informazioni sullo spettacolo. Lo spettacolo Mulino Bianco, Back to the Green Future, a Roma, Teatro India, dal 25 al 30 gennaio 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Enrico Castellani di Babilonia Teatri. A presto! Grazie a te Federico, a tutti gli ascoltatori, e a presto, e mi auguro che ci vedremo a teatro. Con Jacopo Bezzi, che ne cura adattamento, drammaturgia e regia, presentiamo il reading performato Elly Hillesum, una cartolina dal treno. A Roma, Teatro Spazio 18B, dal 27 al 30 gennaio 2022. Ben trovato! Grazie, grazie, grazie mille, eccoci. Dici di questo progetto. Come ogni anno ci dedichiamo alla giornata della memoria per non dimenticare, noi dello spazio 18B, la compagnia dei Masnadieri, abbiamo pensato di raccontare in poche battute, in una sorta di reading per formato, la vita di Attille, insomma questa giovane donna olandese che si è quasi sacrificata spontaneamente andando a lavorare in un campo che poi è diventato pian piano una sorta di campo di concentramento, quindi ne vediamo la trasformazione graduale in un'Europa che stava diventando silenziosamente tutta un grande campo di prigionia nel 1943, e quindi assistiamo a questa evoluzione tragica di una storia che potrebbe essere quella di tante, tantissime ragazze, tantissime donne che in quel periodo lavoravano e aiutavano e che inevitabilmente poi si sono trovate stritolate nel meccanismo assurdo poi della deportazione. Lei ebrea, di famiglia benestante, lavorava e si dava molto da fare per gli altri, per i bambini, per gli anziani, e quindi si trova a suo malgrado a condividere in qualche modo questo incubo e verrà deportata poi sul finire del 43 ad Auschwitz per poi essere uccisa come tutti gli altri. Di lei restano, come da Anne Frank a tante altre, dei diari, delle lettere che pian piano cominciano a delinearsi come racconti tragici e sempre più assurdi di questa vita nei campi, ma lei sempre con ironia, sempre con delicatezza, sempre con una battuta ha cercato di sopravvivere in qualche modo, di andare avanti, e quindi ci ha restituito delle pagine veramente molto molto toccanti di questa esperienza. Come mai la scelta di questo testo e di questo personaggio? Abbiamo fatto un po' un'indagine anche con gli attori, che sono Sara Meoni, Monica Belardinelli e Simone Chiacchiararelli, cercando un po' tra le nostre conoscenze, e è venuta fuori questa figura, l'avevo sentita già per motivi di studio, l'avevo sfiorata, però non ero mai andato nello specifico di questa biografia, e quindi ci ha molto colpito e l'abbiamo scelta. È perché è una storia forse anche diversa dalle altre, quindi questa sorta di volontà di sacrificarsi, cioè di restare, avrebbe potuto tranquillamente evitare questo tipo di fine, perché avrebbe potuto anche con le sue conoscenze salvarsi, ma lei ha scelto in maniera molto stoica, era molto credente, era molto religiosa e si dava da fare per gli altri, quindi non avrebbe mai abbandonato questa umanità che si stava sgretolando sotto i suoi occhi, e quindi ha voluto accompagnarla fino alla fine. Questo le fa onore, è un po' una martire, no? Suo malgrado, rispetto a tante altre biografie sempre struggenti, strazianti, ma questa è un po' particolare, quindi ci piaceva farla conoscere anche al pubblico, insomma, questa storia. Come avete pensato la messa in scena? Abbiamo due attrici che faranno le due voci di Etty Hillesum, quindi una parte più razionale, una parte più passionale di lei, e un attore che farà un po' da trade union, sono vari personaggi, e ci dà anche delle informazioni più o meno didascaliche su quello che è la condizione e la vita di Etty Hillesum all'epoca, partendo proprio dalla sua biografia, dai suoi diari, quindi non soltanto la parte relativa al campo di sterminio, ma anche alla sua vita, ai suoi amori, alle sue passioni, ai suoi dubbi di giovane donna, fino poi a sviluppare sempre di più nelle pagine questo resoconto drammatico che si concluderà con questa ultima cartolina che lei lancia dal treno che la portava ad Auschwitz con la sua famiglia, in cui in maniera veramente assurda addirittura dice arrivederci da noi quattro, cioè lei, mamma, papà e fratellino, con la speranza di rivedersi ma con la certezza che da lì non sarebbero sicuramente più tornati. Quindi anche questa ironia tragica che ha, ci ha particolarmente colpito. È una sorta di salotto quello in cui troviamo i nostri attori, i nostri personaggi, quindi uno spazio non spazio in cui appunto lei racconta le sue vicende, quindi la conosciamo da tanti punti di vista diversi. Ci sono anche le musiche dal vivo di Lorenzo Sorgi alla chitarra, quindi insomma è un bel ensemble di cose. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Intanto il nostro sito www.spazio18b.com, potete tranquillamente prenotarvi a biglietteria@spazio18b.com, oppure telefonando al nostro teatro, noi siamo sempre lì, 06 92 59 42 10, oppure su WhatsApp 333 3305 794, così anche con un messaggio ci si può prenotare. E siamo al Teatro Spazio 18B a Garbatella, via Rosa Raimondi Garibaldi 18B, ci chiamiamo come il civico, almeno non abbiamo problemi di interpretazione, e ci trovate dal 27 gennaio al 30 gennaio, tutte le sere, da giovedì a sabato alle ore 20:30 e domenica alle ore 18. È un biglietto unico che abbiamo voluto mettere, che costa 15 euro, è comprensivo anche della tessera associativa, quindi insomma un modo per poter in 4 giorni conoscere questa storia e avere anche un quadro e conoscere anche il nostro spazio. Stiamo cercando di programmare il più possibile per quanto riguarda anche questa nostra situazione pandemica, ma il 18B insomma resiste. Ovviamente obbligo di Green Pass per entrare a teatro. Il reading performato Etty Hillesum, una cartolina dal treno a Roma, Teatro Spazio 18B, dal 27 al 30 gennaio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Jacopo Bezzi che ne cura adattamento, drammaturgia e regia. A presto! Ciao, grazie! L'agenda della settimana teatrale, ma anche per tutti gli eventi culturali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Qua tutte le settimane è in forse, in dubbio l'ipotesi di andare a teatro. Parlavamo prima del fatto che mi arrivano inviti per andare a teatro e vengono smentiti nel giro di qualche ora perché lo spettacolo è stato cancellato per qualche contatto positivo, qualche quarantena, qualche isolamento. Insomma, è un periodo di battaglia e noi battagliamo. E battagliamo come sappiamo fare, cioè andando nei luoghi di cultura, perché anche quella è un'attività di frontiera. Questo fine settimana, 28-30 gennaio, Carrozzeria Notte presenterà una 3 giorni di spettacoli, di progetti in forma di anteprima, di studio, di presentazione, cioè dei progetti presentati durante il bando Odio l'estate, che è un verso della canzone Estate di Bruno Martino, che se la ricordiamo, i più bei pezzi della musica italiana del Novecento. E questa fase si chiama Tornerà un altro inverno, ossia un altro verso della stessa canzone, che presenterà ben 6 lavori di giovani compagnie che, grazie quasi esclusivamente a Carrozzeria Not a Roma, possono vantare l'opportunità, no, di confrontarsi con il palco, perché non è questo un paese per giovani e Roma non fa eccezione. Mentre appunto, quindi saranno 6 spettacoli per questo weekend, un'occasione abbastanza unica direi a questo punto. Da venerdì 28 gennaio a domenica 30 avremo l'occasione di assistere a Marco se n'è andato e non è Francesca, questo duplice riferimento musicale di Francesca Zerilli e Marco De Bella, che appunto sono i nomi anche dei protagonisti, come vediamo, per dover scendere a patti con l'assenza. Questo è quello che ci comunicano. Seguirà Andrea Dante Benazzo e Laura Accardo con End to End, è un sistema di comunicazione end to end per cui ci si può scambiare un messaggio cifrato da un estremo all'altro e solo il destinatario può codificare quello che ha mandato il mittente. E come si articola questo chiaramente all'interno di una relazione sentimentale ce lo diranno loro. Quindi questo per venerdì 28, sabato 29 Tommaso Lombardo presenta Top and Splits, sulla vicenda insomma di un protagonista trentenne che vive con i genitori in quartiere di Roma Nord, ci racconta la sua esperienza. Segue Thomas Valerio con Not the Same But Again, un lavoro sulla ripetizione, sul linguaggio, sull'identità. Ultimo dei giorni, Maria Federica Bianchi con Ove Odo Oso Oltre, dalle 19 domenica 30 gennaio, con questo Ove Odo Oso Oltre, una frase composta involontariamente da mia nonna, ci dice Maria Federica Bianchi. La annotai sul mio PC e cambiai il colore del carattere dal nero al rosso. Capii in quel momento esatto che mia nonna mi aveva suggerito il titolo dello spettacolo che prima o poi avrei scritto su di lei. Questo e andremo a vedere il 30 gennaio le Carrozzerie Notte. Ultimo degli spettacoli, Giulia Pietrozzini presenta Ippoterapia, che non è uno spettacolo. Ci sono Assentato e Giulio che stanno insieme, noi siamo lì con loro, a caso loro, li guardiamo fare colazione, li ascoltiamo parlare. Come ci sentiamo? Siamo a disagio, li stiamo spiando? Ecco, questo sguardo sulla relazione di coppia e sul concetto di identità è quello che Giulia Pietrozzini con Chantal Gori e Giulio Maroncelli porterà in scena alle Carrozzerie Notte questo prossimo 30 gennaio. Poi allo Spazio Rossellini per sempre del 28 al 30 gennaio Madame Rebinet, questa compagnia che presenta Il Gran Ventriloquini, ed è non una presentazione dello spettacolo ma una lettera di aiuto. La leggo. Io, Gianni Calzino, insieme al mio collega Klaus il Clown, Siamo qui a scrivere questa lettera per chiedere al pubblico di aiutarci a convincere il gran Ventriloquini a rinnovare il repertorio del suo spettacolo. Non ne possiamo più, ci ha stufato, aiuto! Sarà uno spettacolo di magia e ventriloquismo di e con Max Pedersoli allo spazio Rossellini dal 28 al 30 di gennaio. Andiamo anche al Teatro Quarticciolo per una settimana un po' poco teatrale. In realtà c'è un'installazione, si ha Spaesamenti, il paesaggio sonoro che conquista il foyer del Teatro Quarticciolo con le voci e i suoni delle persone italiane e straniere che hanno partecipato al laboratorio di narrazione in lingua italiana, curato da Jack Spittle, da Luca Lotano e Jack Spittle. Questo sarà dal 25. Domani, 26, ci sarà l'incontro a Francesca De Santis e Nicola La Gioia sul romanzo di quest'ultimo, pubblicato dai Nauni, La città dei vivi. Quindi poco teatro questa settimana in attesa della successiva, dove qualcosa di nuovo e buono si muoverà. Andiamo alla Fortezza Est invece. Appena prima, note a margine della memoria. Valentina Minzoni interpreta, dirige, scrive, fa tutto lei, ma la regia la cura insieme a Tania Garriba, e questo monologo delicato e coinvolgente sulla perdita della memoria, con protagonista una donna e il suo percorso nella malattia dell'Alzheimer. Questo lavoro si presenta come interessante 27, 28, 29 gennaio alle ore 20:30 alla Fortezza Est. Cos'altro andare a vedere? Beh, intanto sicuramente Etty Hillesum, una cartolina dal treno, un reading performato, abbiamo già parlato, regia di Jacopo Bezzi, dal 27 al 30 gennaio allo spazio 18B, questo reading in occasione della giornata della memoria, il 27 gennaio 45, il giorno in cui i cancelli di Auschwitz sono stati abbattuti, e la compagnia dei Masnadieri lo celebra con un reading sulla vita e le opere di Esther Hillesum, detta Etty, scrittrice olandese ebrea, tutta da conoscere. Quindi dal 27 al 30 gennaio questo lavoro, lo spazio 18B. Ultimi due appuntamenti per questa settimana. Al Teatro Argentina, dal 28 al 30 gennaio, l'occasione per un grande coreografo internazionale, Dimitris Papaioannou, con Transverse Orientation, un spettacolo del 2021, con molti danzatori, che ha vinto anche il premio UBU 2020-21 con questo spettacolo, tra i maggiori protagonisti internazionali. Questo ultimo lavoro, che il New York Times ha definito un lungo atto di magia artistica creato davanti ai nostri occhi da interpreti superbamente precisi, è un lavoro che sbalordisce per la sua originalità, immagini continuamente create davanti agli occhi degli spettatori, e l'intreccio tra la mitologia greca e la danza viene attraversato dall'evocazione di una poesia visionaria, un'ininterrotta sovrapposizione tra i grandi temi esistenziali, appunto, e la storia umana fino ad oggi. Le musiche sono quelle di Antonio Vivaldi, 28-30 gennaio per Grandi Pianure al Teatro Argentina. E poi, in ultimo, Teatro India, perché, come già detto, dal 25, da questa sera fino al 30 di gennaio, Enrico Castellani, Valeria Dei Mondi, Verosia, insieme a Luca Scotton e Babilonia Teatri, presentano Mulino Bianco, Back to the Green Future. La compagnia, che sta alla Leone d'Argento, alla Biennale di Venezia qualche anno fa, si interroga attraverso due bambini che parlano a una platea di adulti sulla relazione che abbiamo instaurato con il pianeta che abitiamo, e raccontano il loro punto di vista sul futuro e sul futuro del mondo, sul futuro che ci aspetta. Questo lo andremo appunto a vedere al Teatro India da questa sera fino al 30 gennaio. È lo spettacolo un po' della settimana, e con questo direi che abbiamo concluso. Ciao a tutti! Questa è Tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.